Incontri di Gianfranco Fabi. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America, America di Simon & Garfunkel. Con questo brano entriamo nel discorso di oggi, nell'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica. Quanti ci ascoltano? Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica. Mauro della Porta Raffo. Buongiorno a tutti. Mauro della Porta Raffo, conosciuto anche come il Gran Pignolo, perché fino a qualche anno fa chiosava un po' sul Panorama, sul Foglio, gli errori dei giornalisti. Forse ha smesso perché ce ne sono troppi? Ah beh, la situazione è peggiorata. Mi sono reso conto che dopo 13 anni, era 96-2009 la mia rubrica sul Foglio, mi sono reso conto che la situazione era peggiorata e che quindi non valeva più la pena di continuare, ecco. Quindi Gran Pignolo è stato, ma Gran Pignolo è rimasto. Gran Pignolo adesso soprattutto sul fronte dell'America, un grande esperto, un grande conoscitore dell'America, delle elezioni americane. Quest'anno è un anno di elezioni, certo. Quindi un anno magico anche per Mauro della Porta Raffo. Sì, in effetti sì, direi che a dire il vero è già almeno 6 mesi che si parla di elezioni americane, perché i repubblicani hanno cominciato a combattere tra di loro che era addirittura maggio dell'anno scorso, e per conseguenza più di 6 mesi, ecco. Vedremo poi alla fine come andrà e ecco, chi sarà l'avversario. Non facciamo previsioni. Non facciamo nessuna previsione, però vedremo alla fine. Insomma. Come nella logica di questi incontri, cominciamo dall'inizio. Mauro della Porta Raffo, se dovesse definirsi in poche parole, oltre che Gran Pignolo, come si definirebbe? Un uomo bellissimo. Vabbè, siamo in radio, quindi non abbiamo contropartita. No, ma lo scrivo io nella mia cosiddetta biografia, autobiografia, molto breve a dire il vero, non è un'autobiografia, non sono molte pagine, che chiamo folcloristica, e concludo dicendo è semplicemente bellissimo. Io di questo sono assolutamente convinto, forse è l'unica convinzione vera che ho per quanto mi riguarda. Ma è anche una persona, appunto, come mai è diventato un Gran Pignolo? Come mai ha avuto questa passione per andare a fare le pulci agli altri? Ma io questa è una cosa che mi porto da sempre. Io mi ricordo che ero bambino e praticamente quando mi capitava di leggere, mio padre mi portava a casa il Corriere della Sera la mattina e al pomeriggio, la notte, il Corriere Lombardo e il Corriere dell'Informazione, perché all'epoca c'erano tutti questi giornali pomeridiani che adesso sono invece praticamente tutti scomparsi. E dicevo, mi portava questi giornali e io avevo l'abitudine di leggerli già a 8-9 anni. E quando mi capitava di leggere qualcosa che trovavo impreciso, mi arrabbiavo. Mio padre mi diceva, ma sai, i giornalisti sono così, ecco. Però andando avanti ho cercato in qualche modo di intervenire. Quando ero un po' più grandino mandavo delle lettere ai direttori, mai nessuno ha pubblicato una delle lettere che io ho mandato. Fin quando nel 96, incredibilmente, nasce il Foglio. Non incredibilmente nasce il Foglio, incredibilmente, sì. Essendo nato il Foglio, io mando delle lettere di precisazioni, c'erano le elezioni americane anche nel 96, guarda, vuole il caso, a Ferrara comincia a pubblicarle e gli dà un certo rilievo, un certo risalto. Allora io a questo punto dico, ma guarda, questo qui è diverso da tutti gli altri direttori, no? Poi arriva l'estate, lui non mi pubblica più niente, io torno dal mare, gli mando una mail, no, all'epoca si usavano ancora i fax, gli mando un fax lunghissimo nel quale ne dico di tutti i colori, dicendo lei mi ha illuso, non è diverso dagli altri, eccetera, dicendogli di tutti i colori. Il giorno dopo trovo questo mio fax pubblicato dal Foglio con un titolo a 9 colonne, un lettore denuncia la pochezza della stampa italiana, e sotto c'erano 2 righe di Ferrara che diceva lei merita una rubrica, ci sta. È nato così la faccenda, perché io prima non pensavo assolutamente di scrivere, almeno di pignoleria, assolutamente no. Dalla settimana seguente, dal giorno 5 settembre 96, è partita la rubrica pignoleria. E qual è la pignoleria che le ha dato maggiore soddisfazione? Boh, insomma, ce ne sono talmente tante, non lo so, una in particolare, ma forse nei confronti di Claudio Magris, sì, fece affermò una cosa, è un po' difficile da spiegare, è una cosa un po' sottile, ecco, Magris era una persona che è molto colta e quindi coglierlo in fallo è una... Ma cosa, perché si è arrabbiato molto per essere stato... No, perché non ha saputo nulla, probabilmente si sarà arrabbiato, ci sono quelli che si arrabbiavano. E chi si arrabbiava di più? Enzo Biagi io l'ho tempestato nel mio libro Pignoleria, che 10 anni di pignoleria, che è uscito nel 2006 appunto per il decennale. C'erano 68 pagine dedicate a Enzo Biagi, errori. Enzo Biagi aveva quella incredibile capacità di scrivere senza informarsi assolutamente, non gli interessava di dire come stavano esattamente le cose, ecco, diciamo. Ecco, dal punto di vista storico molto spesso è anche problemi di tempo, problemi di modi di fare. Ho capito, ma quando si scrive i problemi di tempo sono relativi, io capisco parlando, per carità. Vede che Mauro da Portrafo non ha fatto il giornalista, quindi vede in un giornale quando si tratta di chiudere le pagine. Sì, ho capito, però io parlando ammetto gli errori, perché chiunque parlando, certo, può dire una cosa al posto dell'altra, per carità, questo succede, quindi non me la sono mai presa con gli speaker televisivi o radiofonici, cioè, grazie. No, radiofonici, per carità, perché può capitare, ma insomma uno che scrive. Ecco, in questa prospettiva, come mai allora Mauro Portarafo non è nato come giornalista, anzi è arrivato forse per alla caso. Fine. Sono arrivato per alla caso. Fine, anzi, no, alla fine speriamo di no, con 40 anni. Ecco, una lunga carriera ancora. Però ha cominciato con che cosa? Facendo l'avvocato, mi pare? Ah no, io ho cominciato facendo il direttore dell'azienda autonoma di soggiorno di Varese, che era un ente pubblico che adesso non esiste neanche più, era il 68 era. Sono stato per 7 anni direttore dell'azienda autonoma di soggiorno, poi mi sono messo a fare l'avvocato e devo dire che è stata la cosa peggiore che ho fatto in vita mia, perché non mi trovavo assolutamente bene, è una cosa che non mi piace, mi sono reso conto che appunto era una cosa che non mi piaceva. Dopodiché mi sono trasformato in giocatore d'azzardo professionista. Sono passato dai codici ai casinò e alle bische, alle corse dei cavalli, gli ippodromi. Ma sempre cose regolari, alla luce del sole? No, beh, no, anche, no. Alla anche luce del sole. Bisca clandestina. Beh, sì, anche le bische clandestine, ma alla luce del sole si può. Ormai passato in prescrizione. Assolutamente, sono talmente tanti anni trascorsi da allora. Questo è un periodo che va dalla metà degli anni 70 ai primissimi anni 80. Poi io ho fatto tantissime altre cose, ho fatto anche l'agente d'assicurazione, ho fatto a Milano, a Como, a Varese, io sono di Varese naturalmente. Poi vediamo un po', ho fatto anche il formatore, qualsiasi cosa. E cos'è che l'ha divertito di più? Ma fare il formatore era molto divertente. Io insegnavo cose delle quali non avevo la minima contezza, non sapevo niente di quello che stavo insegnando, ma andava benissimo, tutti imparavano. Credo di avere una certa capacità da questo punto di vista. Ecco, varesino, quindi varesino da sempre. Sì. Come varesino ha conosciuto un altro grande varesino, Piero Chiara. Beh, altro che conosciuto, io praticamente ci ho vissuto insieme per 12-13 anni. Mia moglie sosteneva che stavo molto più con lui che con lei. Intanto lui era amico di mio padre con il quale collaborava. Mio padre era direttore di un ente pubblico locale e aveva costituito un comitato culturale che doveva aiutare nelle decisioni, a prendere iniziative questo ente pubblico, e nel comitato c'era appunto Piero Chiara. Io cominciai a conoscerlo quindi che ero molto piccolo, ero bambino addirittura. Poi stranamente, fra virgolette stranamente, mi capitò che, essendo io iscritto al Partito Liberale, scoprì che lui era il segretario del Partito Liberale, il segretario provinciale del Partito Liberale, cosa che teneva assolutamente nascosta. Non voleva che si sapesse, perché pensava che gli potesse nuocere dal punto di vista professionale. E non aveva torto, d'altra parte. Quelli erano gli anni in cui dominava la sinistra, anche la cultura con la, certo, K iniziale, diciamo. Certo. Ecco, quindi, però, insomma, dopodiché abbiamo vissuto un lungo periodo insieme, anche da un punto di vista, diciamo, delle campagne elettorali, eccetera. Sono stato candidato alla Camera, sono stato eletto consigliere provinciale e così via. Però anche questo purtroppo poi è finito. Ecco, che ricordo ha umanamente di Piero Chiara? Uno scrittore che ha saputo interpretare certamente la provincia, certamente anche certi sentimenti un po' nascosti, ma dal punto di vista umano com'era? Lui aveva delle spigolosità, si può dire questo, ecco. Era una persona, intanto aveva molto il concetto della necessità di emergere. Lui veniva da una famiglia, insomma, la sua origine era abbastanza bassa, diciamo, anche se le persone erano assolutamente, per carità, oneste. E peraltro ha fatto per anni un mestiere diverso. E ha fatto il cancelliere, l'aiutante cancelliere all'inizio, e poi il cancelliere in vari tribunali, fin quando è venuto al tribunale di Varese, è riuscito a ritornare a Varese, anche se lui era luinese, ma insomma alla fine visse a Varese. Era un uomo un po' spigoloso, aveva questa ombrosità di fondo, però insomma... com'era diverso, perché insomma, visto che ci frequentavamo da sempre, mi conoscevo da bambino e le cose andavano differentemente. È stato una specie di grande maestro, indubbiamente, e una specie di secondo padre. Ecco, quindi Piero Chiara è stato appunto un maestro e un padre. Sì. Che cosa ha insegnato? Perché lui era uno scrittore, non era un saggista. No. Mentre Mauro Della Portarafo è diventato più un saggista. Assolutamente, anche se io tengo ai miei racconti che nessuno conosce, ma che sono molto belli, naturalmente. Ma direi questo, Chiara aveva una competenza specifica in molti campi, perché tutti conoscono il Chiara narratore, ma esiste un Chiara di meno conosciuto che è invece un conoscitore di particolari campi. Non so, per esempio nel campo dell'arte ha scritto molti saggi interessanti su vari scultori e pittori. che erano anche suoi amici, aveva delle competenze specifiche anche da quel punto di vista. Ecco, per molti forse le cose migliori sono quelle inedite. Incontri. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine and the moon rose over an open field. Ancora con le note di Simon & Garfunkel, l'America, riprendiamo il nostro incontro con Mauro Della Porta Raffo. Nella prima parte non abbiamo parlato di America, ne parleremo adesso. Abbiamo parlato di Piero Chiara, abbiamo parlato della sua carriera, delle sue professioni, abbiamo parlato di Varese. Ecco, prima di parlare dell'America, parliamo un attimo di Varese. Varese, come le piace? Ma io ci sto benissimo, intanto perché conosco tutti, almeno per quanto riguarda il centro dove vivo e dove ho anche il mio studio, conosco assolutamente tutti, mi trovo molto bene, sono tutti quanti amici, fraterni proprio, è bello, è molto bello girare e incontrare un sacco di gente con la quale ci si scambia un ciao. Per me è una cosa importante, non mi troverei in una città grande nella quale nessuno si conoscesse, ecco. Ma perché la Lega è nata a Varese? Ah, questa è una bella domanda. Ma insomma, perché Bossi è di lì. Cioè, in qualche maniera questa è la ragione. Bossi e Maroni sono di lì e loro hanno cominciato lì questa loro avventura. Io non voglio entrare in questioni politiche, naturalmente sono di opinioni diverse, sono sempre stato liberale, lo sono ancora adesso. Anche se non c'è più il partito liberale. Non importa, io rimango liberale lo stesso, non c'è assolutamente bisogno che ci sia un partito. Potrei dire che mi sono spostato su posizioni un po' più radicali, ecco, direi che sono un radicale di destra, se così si può dire. La Lega è nata lì perché loro sono di lì, ecco. Poi cioè, sentivano, hanno probabilmente avuto l'intuito di capire che c'era una necessità di muovere qualcosa in quel campo. E allora da Varese all'America? Come mai? Perché vicino a Varese c'è l'aeroporto della Malpensa dove partono i voli per New York, Miami? No, io poi fra l'altro vanto questo fatto di essere l'unico che scrive di America, che conosce perfettamente tutto il sistema latinoamericano, tutte le storie di tutti i presidenti degli Stati Uniti, anche degli sfidanti, tutto quello, e non sono mai stato negli Stati Uniti né intendo andarci. È questa una delle particolarità appunto che sapevo e per questo ho tirato su questo. Non intendo andarci neanche. Io amo l'America che poteva essere in qualche film naturalmente e soprattutto nei quadri di Edward Hopper. I quadri di Edward Hopper rappresentano un'America che mi piace moltissimo, ecco. Ma è morto nel 67, quindi anche cose abbastanza datate. Ma solo paura del volo? No, volo, io per quello volo, non c'è problema. È che non mi piace andare, io non credo, io ritengo che il sistema elettorale americano sia, la Costituzione americana siano praticamente due miracoli, uno conseguente dell'altro, perché il sistema elettorale viene fuori dalla Costituzione in qualche modo con degli aggiustamenti man mano, eccetera. Ritengo che sia stato qualcosa di miracoloso e non è solo mia questa opinione, perché Thomas Jefferson, parlando di tutto quello che avevano fatto loro, disse che erano 50 semidei loro che avevano messo in piedi questa cosa. Si pensi che la Costituzione americana, questa, che è la seconda, perché ne era stata precedentemente adottata una che non funzionava, è del 1787 e con pochissime variazioni funziona ancora adesso. La Costituzione vigente è più antica che ci sia. E per di più, come dicevo prima, funzionante. Ecco, un miracolo, ma l'Europa potrebbe seguire questo esempio, diventare gli Stati Uniti d'Europa? Io non credo proprio. Non credo proprio per varie ragioni, ma anche e soprattutto secondo me perché gli americani, quelli che hanno fatto, che hanno scritto la Costituzione, erano persone che se n'erano andate di loro volontà dall'Europa, per varie ragioni, per ragioni economiche, per ragioni religiose, moltissimi ritenevano di essere perseguitati per la loro religione in Europa. È tutta gente che in qualche modo ha voluto creare un mondo diverso e anche la loro Costituzione rappresenta qualcosa di assolutamente unico e diverso. Io non credo che sia possibile assolutamente riprendere quello che hanno fatto loro. Ecco, visto da qua, visto da lontano, visto soprattutto dalla televisione, magari queste procedure elettorali, le convention, le primarie, sembrano un po' degli spettacoli. Anche degli spettacoli, certamente. Devono essere anche degli spettacoli. Ecco, ma non so, la democrazia forse è qualcos'altro che uno spettacolo. Ah, qui entriamo in un discorso difficilissimo. Che cosa sia la democrazia bisogna che qualcuno me lo spieghi. Comunque gli americani, visto che parliamo di democrazia, diciamo una cosa che molte molta gente forse non conosce oppure anche ha dimenticato. Gli americani hanno un concetto di democrazia dentro di loro, dentro proprio di loro, che li fa pensare che sia un loro dovere esportare la democrazia nel mondo. Questo deriva da una dichiarazione, uno studio che fece John O'Sullivan negli anni 40 dell'Ottocento. Parlò di destino manifesto, della necessità, quasi proprio una necessità del popolo americano di portare la democrazia agli altri popoli. Questo spiega moltissime cose sul comportamento degli americani nel corso dei decenni successivi, diciamo nel secolo e mezzo abbondante, oramai fra poco due, e spiega anche il fatto che noi li consideriamo qualcosa di strano da questo punto di vista. Beh, anche loro hanno un po' un complesso di superiorità, però, proprio in questa prospettiva. Sì, fatto sì, pensano di avere la democrazia. Ora, qui poi il discorso è quello che dicevo prima. Chissà se quella è la democrazia, se davvero noi, gli altri popoli del mondo, perché dovrebbero volere quel tipo di democrazia, ammesso che ce ne siano altri tipi? Non lo so, è tutto un discorso molto difficile questo. Ecco, ma il processo attraverso il quale si elegge un presidente negli Stati Uniti è un processo appunto in cui emergono facilmente chi ha più possibilità economiche, chi ha maggiori conoscenze, chi è maggiormente vicino appunto a Wall Street, ai grandi corporation. Sì, però non sempre. C'è anche la possibilità di affermazione per uno come Bill Clinton. Bill Clinton, quando si è affermato nel 92 la prima volta, veniva da uno stato assolutamente periferico come l'Arkansas ed è arrivato comunque alla presidenza. Non rappresentava l'establishment, era qualcosa di diverso. È vero che nella maggior parte delle occasioni si afferma con quello più, come, che ha più entrature, diciamo così, però può capitare anche il contrario. E comunque gli americani sono sempre convinti, è una vecchia PS che aveva scritto Gore Vidal tanti anni fa, da cui fu ricavato un film interessante, sono sempre convinti che alla fine prevalga the best man, l'uomo migliore. Poi dopo invece in realtà questo non succede, però la loro convinzione è questa. Ecco, guardando al passato, qual è il suo giudizio sui presidenti americani? Non vediamo all'Ottocento, magari stiamo al secolo scorso, ai primi anni di questo secolo, o forse a questo dopoguerra. Dove hanno sbagliato di più gli americani? Oh, gli errori degli americani sono infiniti. Hanno una capacità di sbagliare che è veramente eccezionale, quindi è incredibile che continuino a rimanere una grandissima potenza visto gli errori che compiono. Non so, per esempio, uno degli errori fondamentali è stato nei confronti di Cuba. Quando Castro prende il potere e alla fine, il 1 gennaio del 1959, i castristi entrano a La Habana, gli americani non comprendono, c'era ancora l'amministrazione Eisenhower, subentrerà poi dopo nel Kennedy. 60 Kennedy, il 20 gennaio del 60 entra in carica. E non comprendono, e non avevano compreso già prima, quando lo stesso Castro conduceva la guerriglia sulla Sierra e così via, non comprendono che in quel momento avrebbero dovuto appoggiare la rivoluzione. Il fatto di non averla appoggiata, di avere anzi in qualche modo sostenuto il regime di Fulgenzio Battista, che era invece qualcosa di assolutamente insostenibile da qualsiasi punto di vista morale. Non parlo di questioni politiche, perché Castro non era comunista, attenzione, lo diventerà successivamente proprio in conseguenza del comportamento degli Stati Uniti. Organizzeranno, e poi Kennedy gli darà il via perché venga effettuata la spedizione della Baia dei Porci il 17 aprile del 1961, che è veramente una cosa disastrosa. Fra l'altro, queste cose qui, se si fanno, bisogna farle bene e vincere. Se si fanno male, portano le conseguenze che hanno portato. È il distacco di tutta l'America Latina, per conseguenza a valanga in qualche modo, dopo questo fallimento, questa incomprensione. Insomma, volevano che Cuba continuasse a essere il casinò e il casino degli Stati Uniti, è inconcepibile. E questo ha portato un danno enorme al distacco dell'America Latina, un po' per volta, e ancora adesso ci sono paesi dell'America Latina che odiano gli Stati Uniti, precedentemente no, e anche alla creazione del movimento terzomondista, perché in fin dei conti nasce anche questo da quello. Quindi un errore clamoroso. Questo è l'errore dell'amministrazione Eisenhower, che poi, che è poi stato anche Kennedy portato ha portato avanti, Kennedy, assolutamente. Pur essendo Kennedy appunto glorificato come uno dei migliori presidenti americani, credo che sia stato il peggiore senza nessuna discussione. Ecco, guardando poi in avanti, gli errori ce ne sono stati altri. Tantissimi. Chi ha cominciato la guerra del Vietnam? Kennedy. Ha spedito nel Vietnam i cosiddetti 10.000 consiglieri militari, è ridicolo perché 10.000 non sono consiglieri militari, sono combattenti, questo è evidente. Dopodiché che il povero Johnson, fra virgolette povero Johnson, ha dovuto proseguire in questa guerra che è stata qualcosa di assolutamente deleterio. Anche lì in qualche modo pensavano di portare la democrazia. Ecco, non dobbiamo solo parlare male dell'America, parliamone anche bene. Ah beh, no, io ne ho parlato benissimo dal punto di vista istituzionale. Dal punto di vista di... E poi ha avuto dei grandissimi presidenti, adesso non dimentichiamolo, ci sono dei personaggi di un livello straordinario. Ho parlato prima di Thomas Jefferson, che è veramente un gigante assoluto, e poi bisogna citare Abramo Lincoln, perché insomma è la lotta contro la schiavitù. Vale quello che diceva Churchill della democrazia, il peggiore dei possibili, però eccetto tutti gli altri. Assolutamente, assolutamente. Ecco, sì. Quindi in questo anno elettorale un'America che è in qualche modo impegnata a guardarsi molto all'interno, sì. L'Europa è un po' in difficoltà. Possiamo pensare che l'America sia un po' magari più aperta verso l'esterno ad aiutare un po' questa nostra Europa? Ma non credo proprio che succederà così. C'è qualche candidato di cui non farò il nome, repubblicano, che ha delle chance serie, che ha detto che non spenderà neanche un centesimo di dollaro per l'Europa. Ecco, allora come dobbiamo aspettarci questa America? Tra l'altro ricordo che Barbara Portaraffo ha scritto e anche fatto l'editore di un libro, sì, che si chiama Americana, non si trova nelle librerie. No, è solo per gli amici, sino... 700 pagine per gli amici. Ecco, gli amici possono essere anche quelli che sentono questa trasmissione, scrivono. Ma insomma, a Mauro mi devono scrivere mdpr@libero.it e poi vediamo. Oppure Mauro della Portaraffo varese.italia. Ah sì, certamente. Per chi usa ancora le poste italiane, è un libro che raccoglie una documentazione sulle elezioni americane, soprattutto sul sistema elettorale americano, sui presidenti americani, e c'è naturalmente anche la carta costituzionale americana, e c'è anche una visione della situazione americana politicamente parlando fino al settembre del 2011. Comunque l'America resta una grande potenza, resta un grande interesse. A questo punto, dal punto di vista militare, è senz'altro la potenza numero uno. Dal punto di vista economico, le cose sono forse cambiate. Qualche problema dal 2009 ad oggi l'hanno avuto, molto. L'hanno anche esportato in tutto il mondo. Ma concludiamo dando un elemento positivo da cui possiamo trarre esempio da questa, in fondo, questa grande nazione che poi ci hanno salvato dalla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, gli americani, forse anche ritornando al discorso di cui si diceva precedentemente, questa idea di portare la democrazia nel mondo, però sono da questo punto di vista generosi, sono sempre intervenuti anche a favore, intervenendo appunto nelle guerre mondiali, a favore di un'Europa che in qualche modo era lontana da loro, ecco. Però hanno sempre combattuto, per esempio, le dittature, salvo quelle che sostenevano, ma quando un dittatore era qualcosa di pericoloso per il resto del mondo, come nel caso di Hitler, quando comunque qualcuno poteva essere un pericolo per il resto del mondo, sono sempre intervenuti. Grazie a Mauro della Portaraffo di questa panoramica sulla realtà italiana, sulla realtà americana in quest'ultima parte. L'America comunque resta una grande nazione, una nazione di innovazione, di grande tecnologia, sì, di certamente. Grande apertura, di grandi prospettive, con qualche difetto che è giusto mettere in evidenza. Tutti abbiamo dei difetti. Così come da Gampignolo ha messo in evidenza i difetti e gli errori dei giornalisti. Grazie ancora a Mauro della Portaraffo, grazie a Filippo Reggi in regia, a Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.